70% degli imprenditori stranieri in Italia ha già un conto corrente, il che è un dato molto importante e segnala in modo inequivocabile la proattività di queste persone, il desiderio di integrazione ma anche di lavorare bene nel nostro paese. Addirittura il 6% è pluribancarizzato, cioè ha rapporti con la sua impresa con più banche. Questo dice semplicemente che questi servizi sono fondamentali quando si vuole operare in modo onesto e trasparente e sono anche servizi efficienti per sia incassare ma soprattutto nel tempo per accedere al credito. Mm-hmm. Quindi gli stranieri in Italia devono gestire i propri incassi, naturalmente devono anche trasferire il denaro ai paesi di origine, dottor Roccia. Assolutamente, le rimesse sono una parte importantissima, ormai l'offerta delle banche italiane considera in modo specifico questo grande tema delle rimesse, dove c'è una grande concorrenza anche da parte di operatori non bancari e quindi esistono prodotti, diciamo pacchetti dedicati a questo tipo di soggetti, questo tipo di clienti che prevedono delle rimesse dentro la configurazione del pacchetto. Questa è una cosa importante perché ovviamente l'obiettivo fondamentale di queste persone è guadagnare per poter trasferire risorse magari per una parte della famiglia che è rimasta nei paesi d'origine. Dottor Roccia, questa sezione del sito di Pattichiari è già attivo o siete solo alla fase di lancio? Siamo nella fase di lancio anche perché vorremmo accostare alla sezione del sito anche una guida cartacea che sarà prodotta nelle prossime settimane e che sarà distribuita negli sportelli delle banche, ma anche dei workshop di formazione tra quadri dove metteremo a confronto dentro una stessa stanza sia imprenditori italiani che imprenditori stranieri e operatori di banche insieme a CNA World e poi dei veri e propri seminari di educazione finanziaria rivolti agli imprenditori immigrati. L'ultimo progetto che abbiamo in mente è eventualmente un bando per un progetto di start-up imprenditoriale sempre insieme a CNA World che consenta di segnalare anche chiaramente a queste comunità che chi si impegna bene e sa fare attività imprenditoriale anche nel nostro paese è certamente benvenuto e l'industria bancaria è qui per cercare di servirli nel modo migliore.